Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Fa male uscire così, fa molto male, fa male al calcio italiano, perché tra l'altro perdere ai tedeschi in questo momento significa vedere compromesso ulteriormente il proprio coefficiente UEFA, ma è ovvio che fa male soprattutto alla Fiorentina, ai fiorentini, a chi della Fiorentina è stata una bandiera, come Giancarlo Antonioni. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Senti, secondo te ha qualcosa da rimproverarsi la Fiorentina di ieri sera, oppure è proprio soltanto che era scritto nelle stelle? No, rimproverarsi credo niente, perché nei 180 minuti giocati credo che la Fiorentina abbia dimostrato di essere una squadra solida, una squadra importante. Purtroppo per una svista arbitrale a Monaco non ha passato il turno. Sì. Però credo che non abbia niente da recriminare assolutamente. Sì, perché alla fine è ovvio che è stato quello che ha fatto la differenza, ha pesato. Poi si può ragionare su come il Bayern magari avrebbe impostato la partita diversamente, certo, sull'1-1. Però quello indubbiamente rimane. Senti, proprio a cercare il pelo nell'uovo, correggimi se sbaglio, io penso che sul gol del 3-2 hai appena segnato il 3-1 e questo si inventa questa magia dopo 30 secondi. Credo che i margini di autocritica siano minimi. Forse è quel gol del 2-1 che, su cui, rivedendolo, qualcosina di più, come dire, organizzato, strutturato, si poteva tentare. Ma vedendo la partita, come la Fiorentina si era messa in campo, credo che Prandelli abbia proprio centrato e capito l'andamento del gioco. Purtroppo gli episodi a volte condannano le squadre in modo negativo, però bisogna anche riconoscere l'abilità dei giocatori tedeschi nel tiro da fuori. Forse, diciamo, la Fiorentina è uscita anche per un po' di ingenuità, ecco, si può considerare quello, visto come gioco assolutamente, forse ha giocato meglio del Bayern, sì. Però diciamo nei momenti cruciali qualche piccola ingenuità c'è stata, sicuramente dovuta anche da forse un po' l'inesperienza a livello internazionale. Certo. Senti, io credo che, vabbè, non io, cioè tutti sanno che il vento è l'unico vero nemico del calcio, nel senso che non lo è la neve, sì. Non lo è la pioggia. Ecco, da quel punto di vista, io credo che forse il vento non è per arrampicarsi sui vetri, ma a una squadra quadrata, più esperta, eccetera, il vento dà meno fastidio di quanto lo sia. Non so, ho visto Montolivo nel primo tempo sbagliare 5 lanci consecutivi prima di capire che la palla la dovevi soltanto accarezzare e non calciare. Ma io credo che il vento per un calciatore in genere è la cosa peggiore. Non c'è acqua, non c'è forse nemmeno la neve. Ipotizziamo anche la neve, credo che sia più fastidiosa del vento, perché quando sei a favore di vento devi giocare in un certo modo, quando sei contro vento devi giocare in un altro modo. E quindi è già un po' difficile sotto questo aspetto. Senti, penso che abbia un po' penalizzato in questo caso la Fiorentina, che doveva vincere. Ecco, e su questo non c'è dubbio. Allora, una curiosità, questa è una curiosità che mi porta da ieri sera al momento del sorteggio del campo. Il capitano della Fiorentina vince il sorteggio, perché la moneta, cosa, l'arbitro si rivolge a lui e Montolivo sceglie di giocare il primo tempo a favore di vento. Tu capitano, che scelta avresti fatto? La stessa o la... Io uguale, sì. No. Uguale anche te? Uguale, perché diciamo... Secondo me la logica, a parte poi è il portiere che decide, non questo... diamo la colpa esclusivamente no, a Montolivo. Certo. È il portiere che decide, caso. Quindi si erano parlati prima, è ovvio, certo. È il portiere che ti parla prima e ti chiede che cosa c'è da scegliere, perché poi quello più penalizzato è il portiere, oltre ai giocatori. C'è dubbio. E niente, il primo tempo a favore, perché in quei 45 minuti cerchi di dare il massimo. Mm-hmm. Per poi il secondo, sì, trovi più difficoltà, però fai più fase di contenimento. Quindi la logica è così, poi dopo, come succede spesso, a volte si sbaglia anche purtroppo in queste scelte. Giancarlo, tu nella tua lunga carriera hai avuto momenti straordinari, hai avuto anche momenti difficili o grandi delusioni come ieri sera. Proprio a Montolivo, che oggi è il capitano, ma comunque ai tuoi eredi, che cosa diresti oggi per aiutarli a ripartire dopo una batosta così? Sotto l'aspetto, diciamo, psicologico c'è questa batosta, però sotto l'aspetto, diciamo, di gioco e di convinzione, credo che la Fiorentina ieri abbia dimostrato di essere una squadra all'altezza. Non guardiamo la classifica quest'anno, che è un po' deficitaria, però credo che la Fiorentina anche a livello internazionale abbia dimostrato di essere una squadra solida, una squadra quadrata, una squadra che si è fatta valere nonostante questa eliminazione, che sicuramente è stata un po', diciamo, negativa come risultato, però insomma un po' immeritata, ecco. Giancarlo, sai che io faccio un po' di fatica, ti confesso, a parlare a te considerandoti lontano dalla Fiorentina come sei oggettivamente oggi. Ora, non è in un minuto che si possono distribuire colpe o torti o rivendicazioni, ma in estrema sintesi, ma perché sei così lontano dalla Fiorentina, ed è una libera scelta tua o immagino altrui? No, penso altrui, perché la mia disponibilità nei confronti della Fiorentina sempre stata positiva. Purtroppo quando la nuova proprietà non ha mai cercato di potermi inserire in questo contesto. Ecco. Diciamo, il rimpianto da parte mia c'è oggi, però si fanno anche altre cose. Oggi seguo le nazionali giovanili, certo. Sicuramente sono, diciamo, contento di questo, però è chiaro, la Fiorentina rimane sempre un po' nel cuore dopo 40 anni. Me l'immagino. Averci passato insieme, chiaro, un po' di rimpianto c'è da parte mia. E un po' di tristezza c'è in generale quando comunque si ripassa, insomma, quando si riscopre, no, che una bandiera di quel livello è ammainata. Giancarlo, grazie, a presto. Prego, ciao Gigi, arrivederci. Beh, abbiamo parlato a lungo di vento con Antonioni, è stato il protagonista assoluto ieri sera, lo è anche in giornata, anche se il calcio non c'entra. Leggo da un'agenzia non sportiva che tra le 8 e le 9 di stamattina l'osservatorio meteo dell'ARPA di Trieste ha segnalato una raffica di bora di 152 km l'ora. 152 km l'ora è il record assoluto, perlomeno da quando, leggo in questa agenzia, si è cominciato a registrare il vento con apparecchiature sofisticate e particolarmente attendibili. Altrove invece c'è la neve. Maurizio scrive da Caravanzana: e viva il mitico Antonioni, e un saluto dall'Alta Langa isolata dal mondo da 60 cm di neve, che insomma comincia a essere una discreta quota. Rassegna stampa di oggi. Beh, credo, cioè, non c'è molto se non questo pianto sulla Fiorentina, più che motivato e più che giustificato, la ricerca delle spiegazioni, anche se un perché vero non c'è se non il ritorno all'andata, insomma, no? Che è un giochino di parole, ma è anche il ripasso di cosa ha combinato l'arbitro Vrebo. C'è una sola notizia vera, però non è di piccola portata, pare mio, ed è un'intervista che la Gazzetta dello Sport ha fatto a Mourinho, che ha per questa conversazione interrotto il suo silenzio stampa. Domanda: Balotelli domenica non era al massimo, colpa della febbre? Risposta di Mourinho: febbre? Quale febbre? La febbre l'avevo io, non lui. Come? Io e il dottor Combi sappiamo che Mario non aveva la febbre. Farlo giocare in quelle condizioni non sarebbe stato etico. La febbre di Mario è una bugia, e questo credo che farà felice la società, che domenica sera appunto aveva spiegato il rendimento alterno come minimo di Balotelli con un attacco di febbrile addirittura di 38,5. Primi ascoltatori di oggi: Nicolò, provincia di Bari, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. No, niente, voglio dire, la sfortuna che attraversano le squadre italiane a malincuore è vedere questi stadi in Italia. Niente, buttando l'occhio sull'altra partita di ieri, era una fotografia diversa a vedere lo stadio dell'Arsenal in Inghilterra, tutto qua. Peccato che in Italia stiamo ancora in queste condizioni e nessuno prende atto di questo fatto. La ringrazio, aspetto in ascolto. Sì, non che lo stadio di Firenze abbia fatto brutta figura ieri sera, semmai l'ha fatta con qualche coro finale, ma insomma questo andava messo in conto, perché indubbiamente il torto che la Fiorentina ha subito è grave, ma da un punto di vista di colpo d'occhio e di calore mi pare che Firenze sia comportata molto bene, che di più non avrebbe potuto fare per la sua squadra. Poi certo, se paragoniamo uno stadio appena costruito come è l'Emirates, cioè come quello dell'Arsenal, con tutta la sua modernità, le sue strutture, il suo fascino, al fascino retro invece dei nostri stadi tipo quello di Firenze, è ovvio che che il paragone non è particolarmente insomma, positivo per noi, insomma. Ma come ha fatto il Real, stavo leggendo già questo messaggio, si domanda Alberto, ma come ha fatto il Real a privarsi di Robben, di Snyder e di Cambiasso? Beh, credo Alberto che sia una domanda che si pongono anche a Madrid, anche perché per Robben qualche soldino l'hanno preso, per Snyder abbastanza, ma Cambiasso l'avevano perso a parametro zero, quindi questo fa parte delle politiche delle società troppo ricche, no? Di quelle che possono permettersi troppo, perché poi non aspettano, poi hanno questo andamento isterico che fa sì che ogni tanto in un'annata magari non particolarmente felice insieme all'acqua sporca venga buttato via anche il bimbo, come era Cambiasso a suo tempo e come è stato poi per Snyder e in particolare per Robben, direi. Un altro ascoltatore lo paragona a Messi come efficacia nelle serate di grazia e direi che sì, il paragone ci può stare, poi credo che chiunque sceglierebbe ancora Messi, ma un Robben come quello di ieri sera è su livelli straordinariamente elevati. A proposito di programmazione, il direttore sportivo della Fiorentina, Corvino, ha appena dichiarato perché Prandelli non dovrebbe allenare la Fiorentina il prossimo anno. Lui e io abbiamo lo stesso contratto fino al 2011, la proprietà ha già ribadito che non ci sono programmi diversi e Prandelli ha più volte detto che la storia la vuol fare a Firenze. Silverio ha chiamato da Roma, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Senta, prendendo spunto un po' questa storia del fatto della seconda partita giocata in casa, non le pare un po' ormai anacronistico il fatto di premiare la squadra che segna un po' più gol in trasferta? Perché poi la seconda che gioca in casa è sempre svantaggiata. È un criterio, cioè, noi... Ho anche una mail firmata Filippo Toffanin che è arrivata stamattina che argomenta nella stessa chiave e scrive questo ascoltatore il fondamento logico di questa regola era di favorire lo spettacolo evitando muraglie umane catenacciare, ma nel calcio di oggi ha ancora senso una considerazione del genere? Io non lo so. Credo che un ragionamento lo si potrebbe anche fare. Credo però, anche qua, scusate, non voglio ricorrere al TAR del Lazio, però è un problema di regole, secondo me ci sono delle regole, cioè bisogna, se si parte, non lo so, con un certo numero di firme, in un caso piuttosto che in quest'altro, sapendo prima che, ma possibilmente non false, si tiene conto, si deve tenere conto prima di giocare, perché si sa, no, da qualche decennio, che se segni un gol in più fuori casa, questo vale doppio. Allora, a bocce ferme, d'estate possibilmente, interroghiamoci su questo. Sul durante non ha molto senso, perché per l'appunto il resto d'Europa e credo del mondo non se lo domanda. Chissà perché ce lo domandiamo sempre soltanto noi. Angelo, provincia di Lucca, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Premetto che io sono uno sportivo e nel mondo dello sport tifo Inter, ma ieri sera sono andato a vedere a Firenze la partita Fiorentina-Bayern, perché sì, mi sembrava giusto andare a vedere una squadra italiana come la Fiorentina, che ha reso onore in questo periodo qui e l'ha dimostrato anche ieri sera appunto a tutto il calcio italiano. E devo dire, a proposito rispetto a quello che diceva anche l'ascoltatore precedente, che le garantisco che al di là di quel vento tremendo che c'era, il colpo d'occhio dello stadio di Firenze ieri sera è veramente stato una cosa bellissima, lo dico da tifoso appunto dell'Inter, e al di là appunto di quei cori un po', diciamo così, come giustamente diceva lei prima, aspettati in fondo, però ecco, il comportamento è stato veramente eccezionale. La differenza purtroppo l'ha fatta un grande giocatore che è Robben, che ieri sera a vederlo giocare dal campo veramente è stato uno spettacolo. Lo credo. E io voglio solamente dire veramente onore alla Fiorentina, perché se prendiamo l'età media dei giocatori della Fiorentina di ieri sera, no? E hanno, diciamo, in base a questa poca esperienza che poi alla fine è risultata quella, diciamo, che l'ha fatti perdere, al di là della clamorosa partita di Bayern, su cui è inutile anche ritornarci a questo punto qui, credo che veramente la Fiorentina, con il più grande allenatore che c'è in Italia in questo momento, che è Prandelli, avrà un grande futuro, ne sono convinto. Beh, andiamoci piano con i superlativi assoluti, no, o con io su questo avrei delle riserve, ma non tanto per mettere in discussione il valore di Prandelli, quanto perché di bravi ce n'è anche altri. Certamente ieri sera io credo che la Fiorentina, io non sono nemmeno d'accordo che abbia commesso poi questi grandi peccati di gioventù, perché stava giocando contro una squadra sì, forse poi in realtà non così squadrone come lo si poteva immaginare alla vigilia, però è pur sempre il Bayern di Monaco, è pur sempre la capo... c'era persino un paradosso a un certo punto, perché la undicesima del campionato italiano, se non sbaglio, stava eliminando la prima del campionato tedesco. Ora, il calcio tedesco non è in un momento sublime, però insomma non è neanche ridotto da farsi buttare fuori la capolista dell'undicesima. Quindi la Fiorentina stava facendo un'impresa a tutti gli effetti. Non solo, ma questa impresa l'ha fatta tre volte, perché la Fiorentina era qualificata sull'1-0, a maggior ragione sul 2-0 e ancora sul 3-1. Quindi ha avuto la forza per tre volte di riuscire a orientare la partita e la qualificazione e entrare nelle prime otto d'Europa, ripeto, essendo l'undicesima in Italia, e ci è arrivata davvero, davvero ad un passo. Poi se si va per l'appunto a cercare il pelo nell'uovo, beh, si può anche, l'ho sentito dire ieri sera in televisione che nell'ultimo, insomma, mancava ancora mezz'ora e la Fiorentina non è più riuscita a capovolgere. Beh, vabbè, ma questi sono quelli che il giornalismo lo fanno non avendo mai levato il sedere dalla poltrona, no? Ed è un tipo di giornalismo, a parer mio, molto molto discutibile. Credo che più di quel che la Fiorentina ieri sera ha fatto in tutti i reparti non fosse umanamente possibile fare. Poi è ovvio che se in quei reparti ci fossero stati almeno un centrale difensivo un pochino più autorevole, un centrocampista diciamo con caratteristiche da centromediano metodista, magari non nemmeno con grandi piedi, però con grande personalità e grande senso del piazzamento, insomma, di quelli che sentono l'erba crescere, beh, allora sarebbe stato diverso, lo so anch'io. Ma questa Fiorentina senza Mutu, senza Gamberini e derubata all'andata, io credo che sinceramente più di così non vedo cosa potesse fare, e non vedo cosa si possa, come invece ho sentito sempre da parte dell'autorevole, ho sentito fare e dire ieri sera. Francesco ha chiamato la Novara, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Buongiorno a lei. Io voglio cambiare argomento, nel senso che sono un tifoso del Novara Calcio e volevo ringraziare la proprietà, la dirigenza e i calciatori che quest'anno ci stanno regalando un sogno che speriamo che si coronerà con il ritorno in Serie B dopo oltre sei lustri. Ecco. Speriamo Francesco, grazie. Dunque, cosa stavo leggendo? Ah sì, una sua trasmissione, scrive Cristiano Naprato, sbaglio? O lei lesse un articolo secondo cui ci voleva un anno come tempo minimo per dare il passaporto ad Amauri? Che non sbaglia Cristiano, proprio la scorsa settimana la stampa di Torino ha pubblicato una lunga intervista ad un funzionario del comune di Torino che spiegava, sì, in questo momento, cioè la settimana prossima Amauri depositerà la sua richiesta in maniera ufficiale, perché saranno decorsi i tempi che occorrono, eccetera, che occorrevano per arrivare ad attivare la procedura. Questo significa che da quel momento dovrebbe passare grosso modo un anno, secondo i tempi normali, perché Amauri possa avere il passaporto. E invece Amauri tra un mese riceverà il passaporto e sarà italiano. La notizia ormai è apparsa oggi, ma insomma è confermata già da qualche giorno. E quindi cosa vuol dire? Beh, vuol dire che, come sempre, no? La legge è uguale per tutti, ma per qualcuno è un pochino più uguale, ma anche questa sarà mica una novità. E un'altra notizia triste che è arrivata stamane, perché qualcuno ricorderà forse Mimmo Cataldo, che è morto a 85 anni, era il direttore sportivo del Lecce, è stato il direttore sportivo storico del Lecce, quello che nel 1985, la coppia vincente era il presidente, si chiamava Franco Iurlano, e il direttore sportivo Mimmo Cataldo, per la prima volta portarono il Lecce in Serie A, e dalla gestione di Mimmo Cataldo, che era un personaggio particolarmente competente, simpatico, pittoresco, insomma vennero una serie di talenti, perché quella covata produsse Antonio Conte, produsse Brio, produsse Moriero, e altri giocatori di grido. Un paio di voci che arrivano da Firenze e poi ci proiettiamo sulla vigilia di Manchester-Milan. L'orgoglio di Prandelli alla fine di questa prova così bella e così iellata. Grande amarezza sicuramente, ma orgoglioso di aver portato una squadra a giocare queste partite, su 8 ne abbiamo vinte 6. Orgoglioso perché i ragazzi hanno non soltanto dato tutto da un punto di vista generoso, ma sono stati anche molto attenti da un punto di vista tattico, quindi per un allenatore c'è soddisfazione, è chiaro c'è grande amarezza perché per qualcheduno il gol dell'andata non era così importante e invece lo è stato. Frustrati di nulla, i miei giocatori stanno lavorando per diventare giocatori importanti, queste sono partite che danno non soltanto l'esperienza ma la consapevolezza che se sei squadra puoi comunque lottare contro chiunque a testa alta, e quando si esprimono come hanno fatto con la lucidità, con la capacità di leggere le situazioni, devono essere soltanto orgogliosi. Ha ragione Prandelli, e anche se indubbiamente è difficile accontentarsi poi dell'orgoglio dopo una partita così. Qualcuno ha avuto da recepire sul primo gol subito da Frey, beh sul secondo credo che nemmeno Mandrake avrebbe potuto provarci. Sul primo la sensazione è che un margine ci potesse essere, è vero però che in quel momento a proposito di Vento, in quel momento il Bayern è a favore di Vento e quel tiro che è colpito di piatto e quasi d'incontro in realtà parte più veloce, acquista velocità durante il cammino verso la rete. Sentiamo comunque Frey sui due gol subiti. Era una giornata particolare che c'era parecchio vento, insomma sono stati due tiri fortissimi, angolati, insomma da quello che ho visto, insomma due tiri molto forti. Devo dire che giocare in queste condizioni, soprattutto nel secondo tempo col vento contro, insomma pure a me ha dato l'impressione di essere andata velocissimo la palla, e quindi non lo so, riguarderò con attenzione. Comunque penso che abbia fatto un gran gol, anche il primo devo dire ha preso una velocità, appena toccato il terreno è andata velocissima. Ha preso velocità e in effetti lo dice bene Frey, perché da come è arrivato sul pallone non sembrava irresistibile la conclusione, invece poi la palla ha davvero preso velocità immediata. Lorenzo sta chiamando dalla provincia di Firenze, buongiorno. Buongiorno signor Gigi. Dica. La chiamavo per portare la mia testimonianza, visto che ero anch'io ieri sera allo stadio. E posso dire che il pubblico è stato calorosissimo, a differenza del clima. Però ecco, certo. A oggi, ripensando diciamo al finale, mi chiedevo magari se i soldi di Harrison non fossero stati investiti per coprire la curva, forse oggi avrei evitato la febbre, ecco. E poi un'altra cosa che gli volevo chiedere, se sarebbe bastato l'entrata di Donadelle per arginare un po' la foga di Robben o comunque di tutto il Bayern nel finale. Grazie, arrivederci. Ma vedi Lorenzo, non c'è stato il tempo, perché questa è una domanda che credo sia stato giusto e sia ancora giusto porsi, no? Cioè se non essendo riusciti a difendere il 2-0 non era, non diventi una colpa anche più grave non essere riusciti a difendere il 3-1, ma in realtà dal 3-1 al 3-2 non è passato tempo, cioè non c'è stato il tempo materiale di dire adesso magari proviamo a fare così o cos'altro, perché Robben ha preso il pallone, è andato giù, il gol è stato segnato un minuto dopo, è andato giù, ha fatto quel po' di prodezza e a quel punto sei 3-2 e a quel punto non so se è il caso, anzi non è il caso, no, di coprirsi, semmai è il caso di provare a pensare cos'altro può inventarti per offendere, però in realtà era la testa che non aveva più le risorse per provare a inventarsene un'altra, per riqualificarsi per la quarta volta, ripeto, 1-0, 2-0 e 3-1, e diventava davvero una missione impossibile. C'è un'altra agenzia, mi pare, in arrivo, anziché... che è arrivata nel frattempo e che è un'altra dichiarazione di Corvino, andiamo a vederla. Se l'allenatore non è più in sintonia con questo progetto dovrà dirlo, ma finora non è mai stato così. Questa è la risposta di Corvino, direttore sportivo della Fiorentina, a una domanda precisa sul futuro di Prandelli e sui possibili potenziali contatti che Prandelli avrebbe avuto nel frattempo o con la Juventus o con la Nazionale o magari con entrambe, nel senso di quei normali giri d'orizzonte che a questo punto della stagione sempre vengono fatti. Gianni da Sassari, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senti, io innanzitutto mi unisco anch'io ai complimenti alla Fiorentina, perché è stata veramente una prestazione, soprattutto in ottica delle due partite, una prestazione eccellente, che anch'io trovo assurdo che si possa trovare qualche recriminazione alla prestazione dei giocatori, perché veramente è stata al di sopra di ogni aspettativa. Posso permettere, vorrei un po' cambiare argomento. Un altro giorno, per la convocazione di Corso, io sono sardo e quindi probabilmente sono un po' di parte, però volevo sapere il suo parere per quanto riguarda un'eventuale convocazione al mondiale di Corso, perché secondo me potrebbe essere una sorta di arma in più per la nazionale, in ottica magari delle... Io lo vedo soprattutto come un ingresso a partita iniziata che possa portare un po' di freschezza nella nostra nazionale, diciamo. Lei cosa ne pensa in questo senso? Penso che arma in più mi piace poco, risorse in più mi piace già e rende più onore a questo giocatore molto, molto bravo e molto pacifico. A me Kosu piace molto fin dallo scorso anno e credo che quando dopo cinque giornate, non di questo campionato ma di quello scorso, quando il Cagliari era a zero punti e per la prima volta in vita sua Cellino, anziché farsi guidare dall'istinto, si lasciò convincere da un calcio che nel frattempo si cominciava a intravedere, credo che Kosu e Biondini siano stati i primi due a dare una scossa alla squadra e a far capire che il Cagliari, con Daniele Conti, facciamo tre, ma Daniele Conti già si conosceva, questi due no, soprattutto Kosu, tanto meno Kosu. Quindi io ho un debole per questo giocatore. Se però lo proiettiamo in ambito internazionale, oggi potrebbe essere una soluzione, lui potrebbe essere una buona alternativa. Fa parte di quel gruppo di giocatori che non credo che possano cambiare i destini di una nazionale o di un mondiale. Certamente possono essere molto utili. Se mantiene la forma che ha avuto in questi due anni, che non sono pochi, secondo me, senza poi illudersi che possa essere un protagonista assoluto, però secondo me un posto in Sudafrica, il suo Kosu lo meriterebbe come. A parte il fatto che già il nome fa simpatia, perlomeno a me. Giampaolo, Milano, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Volevo dire una cosa sulla partita della Fiorentina di ieri. Non so se ha avuto modo di notare cosa ha detto Prandelli tra le cose che avete detto prima. Sì. Ha detto che il calcio non aspetta, riferendosi magari al fatto probabilmente che la Fiorentina ha un po' esagerato nell'inserire giovani nella squadra, e questo si vede anche poi magari la gestione di alcune partite, anche sì. Ieri sera, come ha detto lei prima, ha preso due gol in due minuti da una squadra, ripeto, come il Bayern, con un'esperienza internazionale un po' diversa. E anche per questo, non so, la cessione di Dainelli ha fatto di Gamberini, di Muto, che sono mancati, ma la Fiorentina a gennaio ha venduto a Genoa Dainelli, e Dainelli ha sbagliato una volta da quando a Genoa, il gol del Bologna di due settimane fa, per cui penso che sia molto importante un giocatore che era da molti anni a Firenze al centro della difesa. Sì, che non mi sembrava, però, detto tra noi, detto tra lei e me, non mi sembrava una di quelle colonne su cui si costruisce il futuro. Non, è un buon giocatore di routine, ma insomma non è cedendo Dainelli che uno può pensare che si voglia smantellare la squadra, credo, semmai impuntandosi, cioè è quando lo scorso anno stava per cedere Mutu e Prandelli si impuntò prima che tornassero altre disavventure, no? a carico di questo insomma, personaggio non poi così affidabile, no? Perché ormai credo che lo si possa dire. Io non credo che siano segnali così inquietanti. Certo, Prandelli questa frase l'ha detta, e dato che le parole è abituato a pesarle, non credo che sia così casuale, però non so, insomma, lo vedremo. Adesso l'esegesi della frase di Prandelli a caldo e la proiezione cosa, magari ce la risparmiamo, anche perché c'è insomma qualcos'altro che incombe tra mica tante ore, no? Mi pare che Old Trafford si giochi un'altra partita discretamente interessante. Sentiamo la vigilia di Leonardo. ci vuole una concentrazione totale. Io credo che ogni piccolo dettaglio è importante, una partita del genere, il modo come affronti, come cominci, sicuramente come leggi questa partita qua, perché sarà anche un gioco psicologico importante. Non credo che sia facile neanche per il Manchester partire per difendere il risultato. Noi dobbiamo fare quello che sappiamo più fare, che è quello di attaccare senza perdere sicuramente una consistenza della squadra. Io credo che serve un po' di tutto. Io credo che questa partita qua ci saranno tanti momenti diversi, perché dobbiamo gestire sicuramente, prima è come affronti la partita, l'approccio è fondamentale, ma dopo ci sono 90 minuti da gestire e sicuramente gli episodi saranno determinanti, perché ogni cosa che succederà in questa partita può dire tanto, per quello dobbiamo essere bravi. Credo che in questo che noi siamo molto fiduciosi, non solo nelle prestazioni ultime, ma anche nell'intelligenza di questa squadra, nell'esperienza di questa squadra di gestire ogni minuto di questa partita. Credo non ci fosse nulla da fare su quel gol tagliagambe per la Fiorentina, per il Bayern, scrive Dante da Busto Arsizio. Quanto a stasera, sento un po' troppo ottimismo per Manchester, come se fosse il Milan il favorito. Beh, su questo sono d'accordo con lei, Dante, nel senso che è doveroso farsi coraggio in queste situazioni, però non al punto da dimenticare che se vai a giocare fuori casa e fuori casa non su un campo di terzo ordine e devi rimontare non solo una sconfitta, ma non uno 0-1, devi rimontare un 2-3, non puoi nasconderti che serve un'impresa di quelle anche con la E maiuscola. Poi le imprese con la E maiuscola si possono fare, non sono assolutamente vietate, però effettivamente questa sensazione c'è. C'è un'altra mail che mi ha incuriosito. Ho visto la Fiorentina, grandi complimenti, mi associo, eccetera, scrive Stefano da Udine, ma vorrei capire perché amareggiarsi per il gol in fuorigioco di Klose dell'andata e non per quello di Girardino sul 2-0 di ieri sera. Allora Stefano, il suo problema è lo stesso di quel guardalinea dell'andata, è un problema di diottrie secondo me, perché se lei riesce a paragonare un gol in fuorigioco di 2 metri statico con Klose piantato sulla linea dell'area piccola della Fiorentina come un scelga lei se un paracaro o un palo della luce e invece una situazione dinamica in cui parte Girardino col movimento opposto del difensore e ci sono forse 10 centimetri di spalla di Girardino oltre il difensore avversario. Se lei non riesce a distinguere tra queste due situazioni, le ripeto, il suo problema è lo stesso del guardalinea dell'andata. Il ciclista italiano Massimo Giunti, 35 anni, positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping il 23 febbraio scorso. Un ciclista purtroppo italiano positivo all'EPO, in più o in meno sarebbe persino una non notizia, se non fosse che un controllo il 23 febbraio vuol dire che questi ragazzi si portano avanti per tempo, evidentemente, visto che la stagione sta cominciando in questi giorni con la Tirreno Adriatico e il primo grande appuntamento era Milano-Sanremo tra un'altra settimana ancora abbondante. Ripasso della storia, sentiamo cosa ci ha confezionato oggi Nicola Filippone. Sembra ieri. 10 marzo 1991. Pietro Paolo Virdis realizza sul rigore con la maglia del Lecce sconfitto per 2-1 dall'Atalanta il suo ultimo gol in Serie A. Per l'attaccante sardo si tratta della rete numero 101 nel massimo campionato ed è una coincidenza significativa che arrivi dagli 11 metri. Virdis è stato infatti uno dei rigoristi più precisi del calcio italiano, con 16 penalti trasformati su 17 tentativi. Però effettivamente è una percentuale stratosferica, non so fare il conto, ma insomma, siamo ben oltre il 90%. Marco domanda, ma secondo lei Robben non è molto più campione, lui usa la parola fuori classe che a me piace poco, non è molto più campione di molti degli strapagati giocatori così definiti che militano nel nostro campionato? Questo è sicuro, è un giocatore che ha avuto problemi di fragilità fisica negli ultimi anni e questa probabilmente è anche una delle ragioni per cui non l'hanno tenuto a Madrid, anche a Monaco appena arrivato qualche guaio l'ha avuto da questo punto di vista. Però io credo che un giocatore di quel livello lo si potrebbe aspettare comunque, ma ripeto, nelle grandi società che si permettono, che dove più che far mercato fanno collezione di figurine, e più le figurine sono costose e più Florentino Perez si diverte, se una delle stelle è una figurina comprata da quello prima di lui, capite bene che è un attentato al suo superio, no? E quindi probabilmente questa è la o una delle, ma delle principali chiavi di lettura. Alessandro ha chiamato da Milano, buongiorno. Salve Garanzini, fare le due domande per quanto riguarda il ranking europeo. Il ranking? Una non potrebbe essere che ci fossero quattro squadre tedesche, italiane, francesi per migliorare la spettacolarità della Coppa. Così si eviterebbero anche questi problemi che sarebbero in Italia. Poi la seconda che... Andiamo una alla volta. Io credo, cioè, se parliamo di spettacolarità, togliamone di squadre. Non, adesso ovviamente non è riferito alla Fiorentina di ieri sera, ma più ne togliamo, più facciamo selezione e più abbiamo spettacolo. E poi la seconda che secondo me comunque, al di là, le squadre italiane non è che sono meno forti delle altre, che ultimamente siamo un po' sfortunati con i sorteggi, sia dei gironi, anche l'anno scorso la Juve ha beccato subito il Chelsea facendo un bel girone, quest'anno la Fiorentina facendo un bel girone ha beccato subito il Bayern, le milanesi hanno trovato un girone forte all'inizio, sono andate seconde però con delle squadrone, quindi per quello secondo me siamo un po' calando, ecco. Poi ci sono anche le volte in cui il girone invece ce l'hai molto favorevole, ma lo sballi, come era successo all'Inter l'altro anno, e arrivi seconda lo stesso, nonostante fosse un girone di mezze calze, no? Quest'anno c'era il Barcellona, hai tutto il diritto di arrivare secondo. Però è vero, complessivamente è vero che da un certo periodo di tempo, neanche così breve, le urne non... ricominciamo con le urne che sembra... No, insomma, i sorteggi europei non sono particolarmente fortunati a livello di club. Lo sono molto in ambito di nazionale, basta vedere cosa è toccato all'Italia nel girone mondiale e cosa gli è toccato anche nel girone di qualificazione agli europei, ma per i club invece è un periodo, lei ha ragione, in cui non c'è verso di pescar bene. Alessandro ha chiamato da Milano, buongiorno. Alessandro ha chiamato da Milano, certo, infatti ci ho appena parlato, si capisce, ma ero leggermente distratto e chiedo scusa perché stavo leggendo un'altra agenzia. Mario ha chiamato da Napoli, buongiorno. Buonasera dottor Garanzini. Buonasera Mario. Io la volevo ringraziare e complimentarmi per i suoi libri su Nereo Rocco. Vabbè, grazie. Sono tifoso del Milan e niente, la volevo invitare ad un gioco. Come affronterebbe la giornata di oggi, il prepartita, il Paron? Non lo so, non sono mai stato certamente sdrammatizzando, se avesse visto la squadra troppo carica, perché questo è successo spesso, e invece drammatizzando, cioè caricando la vigilia, se l'avesse vista un po' leggera. Ma credo che in una vigilia, in un'imminenza come quella di una partita all'Old Trafford, il problema non sia mai quello di caricare una squadra, sia quello di scaricarla semmai, cioè quella di provare a rilassarla un tantino, non certamente per poi trovarsi la scarica in campo, ma per evitare che vada fuori i giri prima ancora di cominciare la partita. Quindi immagino che avrebbe fatto questo genere di operazione, che d'altra parte ha fatto spessissimo nella sua carriera e di cui restano anche in quei libri che ha citato lei, restano anche fior di testimonianze raccontate da chi allora c'era, per esempio a cominciare dal dottor Monti. Fiore scrive di aver visto l'unico rigore sbagliato da Pietro Paolo Virdis in un Milan-Pisa e non si ricorda l'anno. Beh, insomma, che non ti ricordi l'anno, caro Fiore, mi sembra già poco grave, no? Il fatto che tu abbia visto e che ricordi l'unico penalty, se non ricordo male, Nicola ricordava 16 gol su 16 rigori su 17, mi sembra davvero una percentuale imbarazzante addirittura. Luca scrive: sono un tifoso della Fiorentina, ieri mi sono semplicemente divertito come non mi accadeva da anni, il risultato non inficia in maniera assoluta la prova della squadra, 6 vittorie e 2 sconfitte in Coppa Campioni rappresentano una crescita non indifferente, e io credo che questa alla fine sia la verità di quello che è successo. una chiacchierata sintetica e benaugurante quello che ha detto Ambrosini nella conferenza stampa di Virginia. È la più stimolante, la viviamo abbastanza serenamente anche se siamo molto concentrati. Sappiamo che abbiamo un'opportunità comunque importante, perché la partita d'andata ci ha dato comunque un'opportunità, insomma, di venire qui a fare qualcosa di importantissimo. Quindi c'hai la serenità di chi secondo me sa di potercela fare, ma anche la convinzione. E poi chiaro che sappiamo che sarà una battaglia, sarà comunque un'impresa se riuscissimo a fare quello che vogliamo. Pietro Lacorte in regia, Flavio Soardi con Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio, appuntamento domani.